Questa era la Voce Africa di Manu Dibango, quella sarà la sigla di apertura per ogni trasmissione di Uru. Uru, che in linguaggio Kiswahili vuol dire libertà, e che appunto vuole essere una trasmissione come una sorta di viaggio che dalla Kasbah di Orano alle township di Johannesburg, dalla Cora senegalese al Kra Etiope, suoni, rumori, voci e anche qualche notizia dal continente africano. Appunto, una sorta di viaggio la cui prima tappa, oggi, l'inizio della prima tappa, sarà da Lagos in Nigeria e da un piccolo locale nella periferia della grande città nigeriana chiamato Shrine, in cui Fela Kuti cominciò a proporre il proprio afrobeat e contestualmente le proprie, diciamo, proteste invettive contro il potere dominante in Nigeria, e che poi successivamente, sempre allo Shrine, fu utilizzato dai figli, in particolare Femi, figlio maggiore, e Seun, figlio, uno dei tanti figli appunto di Fela Kuti. E proprio di Seun Kuti, la prima canzone che ci ascoltiamo, African Problems. Sister, where we don't get houses to stay. Questo era Sean Cootey con African Problems e come avete sentito il testo è uno sprone alla lotta per i propri diritti per tutta l'Africa. Il prossimo pezzo è della Pajaya Show Band, un gruppo musicale ghaniano in cui il leader, arrangiatore, autore dei testi, Ebo Taylor, un jazzista molto famoso nell'area ghaniana, nigeriana in genere, anche in questa canzone, in questo pezzo, viene combinato jazz, funk e high live. Appunto Apache Show Band e il pezzo si chiama Kwanko Anansi. Eja obowun won pa juma na kwanza onyi kwanza na beba fengu na de kei kesi e no haben an chadu du biara we ku betu de ma wewu sini yiro upon rasu aya ma kwe kwaga o kesi e kwe ku won wa haben e bi osra no fa My friend we cousin, I snap the aba, I sound my phone. You can see how bad we could any border, how could any bar, how in this way could you do? And about one gaba, we could for my dick, we could say you do. Are you very stati in Ghana con Ebo Taylor e la sua Pajaya Show Band, ritorniamo in Nigeria, ritorniamo a Lagos e ritorniamo allo Shrine con The Black President, Fela Kuti, rivoluzionario, musicista e attivista per i diritti umani, considerato l'inventore del genere dell'Afrobeat e tra i più influenti artisti africani del XX secolo. Il prossimo pezzo è Zombie. Thank you.

Questo appunto, era appunto Zombie, tratto appunto, un pezzo tratto dall'album omonimo Zombie, uscito nel 75. Un pezzo che dura oltre 12 minuti, il tempo che occorre e che si prende Fela per descrivere una novizia di particolari, gli abusi di polizia ed esercito nigeriani, e che appunto paragona dei cadaveri senza volontà, addestrati per sparare a comando. Un disco che ebbe un enorme successo in Nigeria e che fece appunto infuriare il governo. Sempre qui su Radio Wombat, sempre Uhuru, una trasmissione sui suoni, parole e voci dall'Africa, che andrà in onda tutti i venerdì alle 21.30. E a proposito di Radio Wombat, vi ricordiamo diciamo gli estremi per comunicare, per sentire e per interagire con Radio Wombat. Innanzitutto il sito da cui poi potete sia scaricare podcast e soprattutto ascoltare in streaming le trasmissioni in diretta. Il sito è wombat.noblogs.org. Ricordiamo, è Wombat, ecco la doppia V iniziale. Gli account social, Twitter e Facebook. Per quanto riguarda Twitter, è twitter.com chiaramente, /Radio Wombat FI, che sta per Firenze. L'account Facebook è sempre facebook.com/radio-wombat-Firenze. Per quanto riguarda la corrispondenza elettronica, postawombat@insiberia.net. Il prossimo pezzo è Laissé, sempre di Fela Kuti. Laissé, Lairo, Laissé, Lairo, Laissé, Opamini, Awo, Opimi, Siti, Mole, Laissé. Oh, E sempre per la Nigeria, visto che fin dall'inizio abbiamo detto che Uru è di musica africana, ma cercherà di dare anche qualche notizia, questa volta abbiamo cominciato con la musica nigeriana e anche la notizia viene dalla Nigeria, e cioè il 22 di novembre a Londra c'è stata una nuova udienza della Class Session che due comunità nigeriane hanno intentato contro la Shell per inquinamento ambientale dovuto alle perdite di petrolio che hanno inquinato falde, terreno e provocato malattie. Nel 2014 Amnesty International ha contato ben 553 perdite dagli impianti di Shell e Eni, le due principali compagnie del petrolio in Nigeria. Pensate, nel 2009 la Shell ha perso un processo negli Stati Uniti dove è stata accusata di complicità con il regime militare nigeriano nell'impiccagione dello scrittore Ken Saro-Wiwa e di cinque militanti del movimento di resistenza dell'etnia Ogoni che combatteva contro lo sfruttamento del petrolio. Il prossimo pezzo, rimaniamo sempre in Nigeria, è Oriri Jerode ed è tratto da una raccolta della Vampy Soul, una raccolta che ha una copertina veramente eccezionale, purtroppo è impossibile farla vedere. Una raccolta della Vampy Soul con autori vari e si intitola Vampy Soul Goes to Africa, Afrobeat Nirvana. Afrobeat Nirvana, scusate. E il prossimo pezzo appunto è di Godwin Omubua e si intitola Oriri Jerode. Allora, ricordiamo un po' di appuntamenti per il weekend. Il concerto del collettivo dei Nuovi Rumori, Winter is Coming, dalle 22. Ci saranno gli Affranti che presenteranno il nuovo disco coprodotto da Nest Emerson e altri, gli altri, e Rifkin Kazan, Quiet Pig, a Nest Emerson dalle 22. Questo sabato 26. Poi c'è la due giorni di Linux Day, quindi sabato e domenica, presso la ex fila, dalle 10 di mattina. Il programma lo potete trovare su wiki.linux.org/linuxday2016. Il prossimo pezzo è di Babatunde Olatunji, rimaniamo sempre in Nigeria. Babatunde Olatunji, detto Baba, un musicista e percussionista nigeriano, noto tra l'altro per aver portato per primo negli Stati Uniti la musica tradizionale nigeriana e per aver tra l'altro registrato il primo album di musica africana in stereofonia. Stiamo parlando di metà anni 50 e inizio anni 60. È noto anche per essere, appunto, il prossimo pezzo è Jingo Loba, un pezzo ripreso anche da Carlos Santana e suonato al Festival di Woodstock, ma chiaramente la versione originale, quella che vi facciamo ascoltare ora, è quella che, da cui proprio si sente veramente la musicalità africana e che si può considerare un pezzo un po' precursore dell'afrobeat. Quindi Babatunde Olatunji con Jingo Loba. Allora, ricordiamo ancora una volta i social della radio. Il sito è wombat.noblogs.org, da lì potete ascoltarci in streaming o scaricare i podcast di tutte le trasmissioni che vi siete persi. Su Twitter è Radio Wombat Fi, Facebook è Radio Wombat Firenze, la mail è postawombat@insiberia.net. Il prossimo pezzo è un pezzo jiv, una sonorità simile all'afrobeat, però molto più tesa e soprattutto è nata in altri paesi africani. In questo caso stiamo parlando di Dick Cosa, un malaviano, pezzo African Jive, tratto da una raccolta bellissima e consiglio, si intitola Africa 100, sono 7 CD in cui diciamo viene fatto un excursus della musica africana, sostanzialmente in particolare Jive, Groove e Afrobeat. Dick Cosa, Africa in Jive. Ci spostiamo ancora più a sud per l'ultima tappa di questo primo viaggio musicale su Uru. Ci spostiamo a Johannesburg, la città più importante del Sudafrica. Ci ascoltiamo un pezzo di Noise Canile e Joburg City Star, un pezzo Groove Jive, il pezzo intitolato Grooving Jive Number One, in cui viene combinato tutta una serie di strumenti, ma anche battiti di mani, vocalizzi, effetti speciali, e tutto ciò riconducibile agli strumenti e alle tradizioni danzanti, diciamo, Zulu. Una sorta di Township Jive, Noise Canile and the Joburg City Start, con Groovy Jive Number One. Hey, Machita! Hey. Hey, I groove number one in Bunene, pe. Hey, Google. Hey, so, da. Hey, Thank you. Questo era l'ultimo pezzo per oggi, Noisy Canile and the Joburg City Star Grooving Chief Number 1. Ricordiamo i Social Wombat, il sito da cui potete scaricare podcast e soprattutto ascoltare la trasmissione in streaming, wombat.noblogs.org, l'account social Twitter e Facebook, Twitter Radio Wombat Fi, Facebook radio-wombat-firenze e la mail per corrispondere con la radio, con suggerimenti, proposte, complimenti, posta wombat@insiberia.net. Ricordiamo la prossima trasmissione è venerdì prossimo, sempre su Radio Wombat, sempre Uru. E passeremo da un altro dei paesi che sono un pilastro della musica africana. Vi svegliamo solo questo, si tratta del Mali. Buonanotte a tutti. Parte la sigla finale, la stessa sigla di apertura, Waka Africa, Mano di Banku. Ciao a tutti.